Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buon sabato anche oggi insieme per occuparci di noi, della nostra salute, con un occhio all'attualità che ci offre sempre spunti interessanti, suggerendoci iniziative, risultati di studio, aggiornamenti e revisioni. E uno a quello che io chiamo buon senso illuminato, è quello che ci guida delle scelte consapevoli e mirate e cucite soprattutto sulle nostre personali esigenze. Obiettivo Salute, lo sapete, nasce proprio con questo intento: parlare di salute, ma solo di quello che serve sapere fare per stare bene, al di là delle mode, dei sentito dire, delle notizie che fanno notizia senza avere però alcun fondamento scientifico. Allora iniziamo. A proposito di attualità, oggi non possiamo fare a meno di tornare a parlare di antibiotici, o meglio dell'antibiotico resistenza, tema che avevamo già trattato in occasione del G7 della salute, poiché insieme all'inquinamento e alla salute della donna e del bambino era nell'agenda di questo importante appuntamento che, vi ricordate, si è svolto proprio a Milano ai primi di novembre. Oggi è la giornata proprio dedicata all'antibiotico resistenza, una giornata per sensibilizzare tutti noi, ma anche le istituzioni, anche i medici, all'uso dell'antibiotico, degli antibiotici in modo più consapevole. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Menichetti. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletta, buongiorno ai radioascoltatori. Il professor Menichetti è professore di malattie infettive all'Università di Pisa e presidente del GISA. Professor Menichetti, l'Italia, ahimè, ha guadagnato la maglia nera. Gli antibiotici ne consumiamo probabilmente troppi e li usiamo male, e questo ha fatto sì che si creassero dei superbatteri resistenti appunto agli antibiotici. L'Italia ha il triste primato tra i tanti che possiede di consumo di antibiotici, che si affianca a un primato europeo nell'antibiotico resistenza. Il GISA, di cui lei è presidente, ha prodotto un decalogo che ha proprio l'obiettivo di promuovere la cultura dell'appropriatezza nell'uso degli antimicrobici, degli antibiotici, e soprattutto di così favorire e aiutare al rispetto delle buone pratiche assistenziali nel controllo di questi superbatteri. Il decalogo si ispira all'approccio One Health. Ci spiega esattamente che cosa significa? L'approccio One Health considera basilari perseguire la tutela della salute umana, della salute animale e la tutela del territorio. Considera questi tre settori tra loro fortemente interconnessi, e considera decisivo riuscire a muoversi in questo senso per ottenere risultati. In effetti occorre capire un elemento che è fondamentale, cioè che la tutela della salute umana in termini di prevenzione dell'antibiotico resistenza non può prescindere dalla tutela della salute animale. Purtroppo, esatto, negli animali si usano troppi antibiotici e il più spesso delle volte totalmente a sproposito, e noi dobbiamo fare degli sforzi ulteriori per cercare di contenere questo, che è un fenomeno mondiale, che è un fenomeno pericoloso. Noi abbiamo buone leggi, anche l'Europa ha leggi che direi restringono in modo significativo l'uso degli antibiotici negli animali, ma purtroppo non è così a livello mondiale. Non è così in Cina, per esempio, dove c'è una totale, diciamo, mancanza di restrizioni. Non è così negli Stati Uniti, dove ci sono generiche raccomandazioni. E noi e i radioascoltatori devono ricordare che quando andiamo a fare la spesa nel supermercato, i prodotti che noi troviamo sono provenienti ormai da tutto il mondo. Con la globalizzazione noi possiamo trovare della frutta che viene dal Sudafrica, o del cibo che viene dal Sud America o dall'Europa dell'Est. Questo è un problema mondiale. Il G7, che c'è sulla salute, che è stato recentemente a Milano, ha cercato di affrontare questa tematica, ma c'è ancora molto da fare, perché bisogna capire che l'uso degli antibiotici negli animali che ha come finalità quelli di non farli ammalare, no? Animali che poi saranno animali che noi utilizziamo come alimenti nelle nostre tavole, insomma, ha appunto l'obiettivo di non farli ammalare, ma spesso ha la finalità di farli accrescere più rapidamente, di più e più rapidamente. A parte che questo non è, diciamo, un evento chiaramente dimostrato, cioè non si ha la sicurezza che gli antibiotici accelerino e rendano più consistente la crescita di questi animali, e bisogna regolarlo e impedirlo, perché ecco, la resistenza anche perché degli animali passa agli uomini e viceversa. Anche perché l'utilizzo degli antibiotici ad effetto, mi passi il termine, dopante, abbiamo fatto un'intervista molto bella a Maria Caramelli, direttrice dell'Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Val d'Aosta, è nel nostro paese vietato, professore. Quindi È vietato, ma è occhio all'etichetta e alla tracciabilità. E questo possiamo dare come messaggio ai nostri ascoltatori, professore? Diciamo, insomma, cerchiamo di fare una spesa responsabile in posti che diano garanzie e che rendano assolutamente evidente la provenienza del cibo, ma non ci dimentichiamo anche i comportamenti in ambito personale, familiare. Professore, ce li ricordi? Perché poi con gli antibiotici noi tendiamo ad avere un comportamento un po' troppo disinvolto. Esattamente, questo è da ricordare e sottolineare. L'antibiotico è un farmaco a elevato indice terapeutico, quindi diciamo un farmaco che costa poco, è facilmente disponibile e ha potenzialmente dei limitati eventi avversi, e quindi spesso uno ricorre al suo utilizzo a prescindere da una prescrizione medica, spesso anche se li auto somministra. Ecco, questa è una pratica che in Italia è molto diffusa e radicata e che deve essere fortemente combattuta. L'auto prescrizione e l'autosomministrazione spesso sono generate da situazioni che non sono congrue, cioè le infezioni, le febbri respiratorie in periodo influenzale sono per lo più virali. Quindi l'antibiotico non va utilizzato. Esatto, lo ripetiamo con forza, perché questo è il periodo delle influenze, delle simili influenze, no agli antibiotici, perché i batteri diventano sempre più super e poi rischiano di farsi un baffo degli antibiotici, e quando ne abbiamo bisogno rimaniamo con le armi spuntate. Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata. A lei, Nicoletta, e ai radioascoltatori. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi ritorniamo subito dopo insieme. Aspetto un ospite, il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo, perché dall'America ci sono le nuove linee guida sull'ipertensione. L'asticella della normalità viene spostata verso il basso. A tra poco. Obiettivo Salute Weekend. È diventato un classico per noi quando parliamo di pressione. Lo facciamo anche oggi. Perché? Perché arriva dopo 13 anni la tanto attesa revisione, le linee guida per l'ipertensione della Società Scientifica di Cardiologia Americana, che portano l'asticella verso il basso, così che per normalità, pressione normale, da oggi si intende una sistolica, quindi una massima inferiore a 120 e una diastolica inferiore a 80, quindi massima 120, minima 80. Questo arriva dall'America e noi lo commentiamo con il nostro esperto, il dottor Massimo Gualerzi, cardiologo ed esperto di prevenzione delle malattie cardiometaboliche. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dottor Gualerzi, dall'America arrivano sempre mode, novità, e arriva anche questa revisione delle linee guida, e devo dire che è un bel giro di vite. Beh, devo dire che è un cambiamento abbastanza importante, anche se diciamo che noi cardiologi da tanto tempo sosteniamo che la pressione migliore sia la più bassa che una persona riesca a tollerare. È logico che adesso, mettendo nero su bianco sulle linee guida questo nuovo, diciamo, linea, questo nuovo limite, creerà sostanzialmente delle persone ufficialmente più a rischio, che dovranno prendere delle contromisure se vorranno rimanere a un rischio prospettico, ricordiamo prospettico perché l'ipertensione non è una malattia ma un fattore di rischio, più basso. Quindi l'idea è stata proprio quella di ridurre il rischio prospettico nelle persone facendole avere una pressione più bassa. Allora, lei, dottor Gualerzi, lo sa perché lei i pazienti li incontra e probabilmente alcuni suoi pazienti le avranno così espresso questo dubbio, che si ripresenta ogni qualvolta vengono ritoccati i valori, i livelli, e si pensa sempre che questo sia un giochetto per rendere pazienti persone che in realtà sono ancora sane. Secondo se noi facciamo due conti, in questo caso per l'ipertensione, le nuove linee guida arruolerebbero un 14% in più di pazienti tra gli ipertesi. Dottor Gualerzi, sicuramente questo discorso lei se l'è sentito fare parecchie volte. Come risponde lei ai suoi pazienti? Sì, questo vale per il colesterolo, per vale tutto. Per la pressione, vale per tutti i limiti che vengono ribassati verso il basso. Ecco, sulla pressione devo dire che rispetto ad altre dietrologie, riguardo ad altri dati, mi sento invece di spezzare una lancia assolutamente favorevole sul fatto di tenerla più bassa, perché è inevitabile due aspetti. Prima di tutto che spesso non conosciamo i nostri reali valori di pressione, e quelli che abbiamo sono spesso quelli che abbiamo a riposo, in condizioni ideali, e sul divano, la sera a casa, mentre in realtà abbiamo tutta una vita giocata fuori dalla nostra abitazione, dove non ci misuriamo la pressione, dove questa resta tendenzialmente più alta. Quindi è buona norma abbassare i livelli proprio per permettere al nostro organismo di avere la pressione durante tutta la giornata bassa. L'altro aspetto, che è una evidenza palese a tutti quelli che operano in ambito cardiovascolare, è che i danni da pressione iniziano molto precocemente, quindi diciamo anche pressioni poco più alte della norma possono già offrire una modificazione sia del cuore che dei vasi, in senso appunto chiamiamolo distruttivo, che poi alla lunga rappresentano la porta d'ingresso delle malattie cardiovascolari. Da qui la scelta a tenere bassa la pressione, ma giusto anche per rispondere al fatto delle lobby, delle aziende farmaceutiche che vorrebbero vederci più malati, rispondo subito che la pressione, soprattutto più di tutti gli altri fattori di rischio, può essere curata tranquillamente anche con lo stile di vita. E lei naturalmente ci aiuterà a individuare quei piccoli cambiamenti, a volte sono davvero piccoli, che ci permettono di tenere sotto controllo la nostra pressione. Daremo dei consigli per chi magari ha delle persone nella propria famiglia che sono già ipertese, e daremo consigli anche per chi sta già seguendo una terapia. Ma dottor Gualerzi, misuriamoci questa pressione e ci sono delle attenzioni che noi dobbiamo avere nel farlo, a partire anche dalla scelta, direi, del non solamente del quando e del dove, ma anche del mezzo da utilizzare. Perché si fa particolare attenzione anche alla misurazione a casa della pressione, ma bisogna utilizzare un manicotto adeguato per la forma del braccio, per la circonferenza del braccio. Dottor Gualerzi. Sì, perché il rischio è che usando manicotti troppo stretti rispetto a un braccio grosso, quindi il manicotto deve assolutamente avvolgere completamente il braccio e quindi fare praticamente un giro coprendolo bene, un giro e mezzo, perché se usiamo un manicotto troppo piccolo la pressione viene sovrastimata. Quindi ad esempio se un obeso si misura la pressione con un braccio adatto a una persona con un braccio normale, la troverà più alta, e questo vale anche viceversa, perché si misura con un braccio troppo piccolo con un bracciale troppo grosso, quindi va diciamo adattato. Ma forse l'aspetto più importante della misurazione della pressione è capire che la pressione corretta la si misura dopo 3 minuti in posizione seduta e facendo la media di almeno 3 rilevazioni. E l'altro aspetto è di utilizzare degli apparecchi che siano tarati, perché noi sappiamo che, come tutti gli apparecchi che abbiamo in dotazione e non solamente in ambito medico, dopo un po' tendono a stararsi e quindi vanno ritarati, quindi soprattutto quelli automatici e quindi hanno degli algoritmi interni che facilmente si possono starare, devono essere riportati ai rivenditori dove sono stati acquistati, che hanno degli strumenti apposta per rimetterceli in equilibrio e quindi non sovrastimare o sottostimare la pressione. Quindi dobbiamo occuparci anche dell'apparecchietto con cui ci misuriamo la pressione a casa, e ogni tanto bisogna ritararlo, farlo controllare, per essere sicuri che i valori siano quelli corretti. Certo, anche perché tanto più entriamo nel dettaglio della misurazione e diventiamo così sofisticati e fini, tanto più dobbiamo pretendere di avere degli apparati o diciamo dei misuratori che siano altrettanto fini e altrettanto sensibili. Allora, quindi, importante misurare la pressione. Dobbiamo farlo anche quando non pensiamo, cioè per un controllo, anche quando non abbiamo un'età che... generalmente si pensa sia a rischio ipertensivo. In altro termine, devono misurarsi la pressione anche i giovani. Anche i giovani, tra l'altro ci sono molti studi, tra l'altro anche condotti proprio in Lombardia, Milano, da un gruppo molto importante che si occupa di queste cose, che ha rivelato appunto come l'ipertensione in età giovanile sia molto superiore rispetto a quanto non ci immaginiamo, soprattutto adesso che i valori si sono stati appunto ulteriormente abbassati. La vera fascia di età che troverà una maggiore prevalenza di ipertensione sarà proprio quella under 45, quindi persone che prima erano insospettabili poter avere la pressione non a posto, comunque diciamo normale. E quindi il vero discorso è soprattutto i giovani, ma soprattutto le persone che non pensano di avere la pressione alta, perché ricordiamo sempre che l'ipertensione, così come il colesterolo alto, non dà segno di sé, non dobbiamo aspettare sintomi, perché è una sorta di fattore di rischio silente e che solo in rari casi dà delle alterazioni come mal di testa, appunto la cefalea, oppure quei famosi battiti o fischi nelle orecchie o quel senso di vertigine che però solamente un 20-30% delle persone lo percepisce, e gli altri con la pressione alta stanno mediamente bene. Ecco, la pressione è molto subdola, l'ipertensione è subdola, non dà segni di sé, non ci facciamo mettere in scacco dalla pressione, misuriamola. Anche perché lo stile di vita può fare molto. Dottor Gualerzi, indicazioni per un giovane che vuole lavorare e mantenere la pressione a livelli suggeriti come quelli dalle linee guida 120-80. Innanzitutto voglio dare un messaggio molto chiaro che ribadirlo rispetto a quello che ho già detto. La prima forma di terapia per l'ipertensione è la modifica dello stile di vita. Anche trovandosi dei valori patologici, si hanno almeno 6 mesi di tempo per poter modificare lo stile di vita e far riportare i propri valori di pressione all'interno della norma e quindi non accedere direttamente al farmaco. Ma anche quando si sono utilizzati i farmaci, non è vero che una volta iniziata la terapia questa deve continuare tutta la vita, perché se cambiano le nostre abitudini di vita può anche cambiare la nostra pressione, e con questo possiamo anche abbandonare la terapia. Quindi nulla è per sempre, soprattutto dal punto di vista farmacologico. Detto questo, diciamo, come al solito ci riconduciamo in 3 elementi. Il primo è l'aspetto alimentare, il secondo è quello di movimento, il terzo è quello delle tecniche per combattere lo stress. Parto da quest'ultima dicendo che ci sono anche delle applicazioni scaricabili sui nostri telefoni che, aiutandoci a guidare e guidandoci all'interno di una respirazione sempre più profonda e sempre più diciamo lenta, permettono di abbassare la pressione arteriosa anche di 4-5 mm di mercurio. Quindi semplicemente dedicando una decina di minuti al giorno alla nostra respirazione profonda, e quindi in un certo senso andando a impattare sul nostro stress diciamo psicofisico, ecco, questi sono in grado di riportare la pressione verso il basso, e quindi questo diciamo è semplicemente quello che possiamo fare sull'aspetto. E io vi rimando ai video che abbiamo fatto con Mike Maric proprio sulla respirazione, per imparare a respirare in modo corretto e soprattutto a vantaggio della nostra salute. Dottor Gualerzi, un minuto per dare le indicazioni ai nostri ascoltatori. Sull'attività fisica ci tengo a dire una cosa, che per abbassare la pressione, visto che molto spesso nell'ipertensione c'è una rigidità delle arterie che non sono più in grado di dilatarsi e di, quando c'è bisogno invece di stringersi, c'è bisogno di fare attività fisica con molta variazione di ritmo, quindi andare forte, fare un'intensità elevata dell'esercizio fisico e poi ritornare a un'intensità più bassa, e fare questa cosa che in termini tecnici si chiama fartlek o interval training, almeno per mezz'ora al giorno, e se possibile 4-5 5 volte alla settimana. Quindi questo per quanto riguarda l'attività fisica. Per quanto riguarda l'alimentazione, sappiamo tutti la riduzione del sale, ma soprattutto il sale contenuto negli alimenti, e soprattutto mangiare molte antiossidanti. Gli antiossidanti migliorano l'elasticità delle arterie, le troviamo nella frutta, nella verdura, soprattutto di stagione, e logicamente nei cereali integrali. Quindi molti antiossidanti per mantenere le arterie più elastiche e quindi combattere l'ipertensione. Dottor Gualerzi, l'aspettiamo presto per un video a obiettivo salute. Intanto le auguriamo un buon sabato. Io lo auguro a voi e grazie di nuovo. Ci misureremo la pressione, penseremo a lei, e domani, mi raccomando, vi aspetto alle 12, sempre alle 12, alla Bufala in Tavola. Parleremo anche di antiossidanti. Buona giornata da Nicoletta.